che non ho voce, quindi ottimizzate le domande perché sennò, cioè, se mi si scaricano le batterie è finita. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. D'angolo in area di rigore, Mandžukić per Barzagli che sotto porta, porta la Juventus in vantaggio. I'm gonna give you my heart. Doppio passo di Lemina che si accentra, arriva al limite e calcia col destro, segna un gol meraviglioso Lemina. Palla giocata al limite per Duncan, un gol fantastico, il primo con la maglia del Sassuolo. Versalico sul fondo, mette il cross teso, il pallone passa, Sansone fa 2-0, l'assist di Versalico, il gol di Sansone, il quarto del Milan in carriera. Era inevitabile, meno 11 giornate ed è tempo di qualche verdetto. Allora, il primo verdetto è che il Milan è fuori dalla lotta per la Champions. L'avete sentito, perso 2-0 contro il Sassuolo, interrotta la striscia di 9 risultati utili consecutivi, in questo momento meno 9 dalla Roma, meno 6 dalla Fiorentina, magari questa sera alle 22:45 meno 4 dall'Inter, vedremo. Ma le milanesi devono correre, il Milan doveva vincere a tutti i costi, quasi tutte le partite, è caduto sul primo degli ultimi 11 ostacoli. L'altro mezzo verdetto è che la Juve continua a vincere, si è ripresa dalla caduta di San Siro, ha vinto 2-0 a Bergamo, ha vinto anche con gol non nobili, c'è Buffon che è sul podio dei portieri meno battuti della storia della Serie A e magari settimana prossima diventerà anche il primo, insomma c'è tanta carne al fuoco. 800 24 00 24, prenotatevi, voglio sapere cosa ne pensate della ribellione di Mihajlovic. Berlusconi gli ha detto deve giocare Menez con Bacca, ha giocato Balotelli, il Milan ha perso, Balotelli ha giocato malissimo. Carlo Genta qui con me, ciao Carlo. Ciao, ciao a tutti. Non so cosa ne pensi. Toni Damascelli, ciao Toni. Ciao a te, buon pomeriggio Carlo. Io penso che sarà una settimana complicata per Mihajlovic. Ma è un anno complicato per qualunque allenatore si sia seduto sulla panchina. Berlusconi è un presidente eccezionale, al tempo stesso scomodo, fastidioso per alcuni allenatori che hanno un carattere, una testa particolare. Sinisa Mihajlovic appartiene a questo gruppo. Se vuole fare un così, tagliarsi gli attributi e fare un dispetto alla moglie, sbaglia. Questo non significa che avesse ragione Berlusconi, soltanto che Milan ha perso. Però, come mi diceva un grande dirigente del passato, quattro occhi vedono meglio di due, sempre che gli altri due occhi siano di esperienza, siano portatori di giuste considerazioni. Sì, Berlusconi in passato ha dimostrato... Però vi leggo qualche numero oggi di Balotelli, 55 sì. minuti, zero tiri in porta, un tiro fuori, 19 passaggi... Guarda, non ci sono notizie su Balotelli, però qualche segnale c'era, adesso lasciando stare 5 anni, c'era anche con l'Alessandria mercoledì. È un miraggio, è un'invenzione del calcio italiano, prima ho sentito nelle telecronache, fantastico, fa aggettivazioni eccezionali per questo nostro Super football. Mario. No, ma Super Mario, per altri personaggi in panchina, in campo. Balotelli non è un grande calciatore. Balotelli è uno che sa giocare a pallone, ma non sa giocare a calcio. Sono due cose diverse. L'ho detto mille volte, come due che fanno a cazzotti che non fanno box. E non ha mai imparato, eh? No, non ha mai imparato. Mai. Non ha i numeri, ha un talento, ma non so cosa dirvi. Cioè, dovunque sia andato, ha creato dei problemi alla squadra, ai tifosi, a se stesso. E siamo ancora a inseguire Balotelli. Seguiamo Balotelli. No, il tema secondo me è se può essere la pietra dello scandalo. Cioè, finito il sogno della corsa al terzo posto, perché con oggi si chiude. Ma sì, ma hai detto bene, esatto, sogno. Con questo sì, sogno, però finché lì 9 risultati tutti lì consecutivi, magari davanti qualcuno rallenta, e tu puoi coltivare poi il sogno. Pessima partita oggi il Milan, eh. Pessima partita al di là di Balotelli, della disobbedienza di Mihajlovic. Può diventare il sasso su cui gira poi anche quella specie di tregua che sembrava essersi firmata tra Berlusconi, Mihajlovic e tutto l'ambiente. Guarda, io non penso che il Milan abbia trovato l'equilibrio, la pace. L'avevo quasi sperato sotto un certo punto di vista, perché è un apporto come per l'Inter importante per la nostra visibilità internazionale, ma non è così. Sia una squadra che l'altra hanno dei problemi enormi, non parliamo a livello finanziario che sono una cosa da fallimento, dal punto di vista tecnico ci sono questi problemi dinanzi ai quali ci sono delle fughe, perché se da una parte Mancini non sa se rimane l'anno prossimo, dall'altra Mihajlovic è sotto schiaffo ogni partita, stiamo parlando del Milan e stiamo parlando dell'Inter. Io ritengo che il discorso di Mihajlovic col Milan sia finito, si sia esaurito, ma non vedo il futuro comunque, perché non vedo il futuro di questo club che è ancora alla ricerca di compratori e ha illuso tutti. Sì, forse sì, non c'è certezza su nulla al Milan. A oggi nessuno sa dire quale sarà il futuro, come sarà la prossima stagione. I club italiani insieme con la Juventus che sono alla ricerca di compratori e i compratori non vengono. Sì, non in questa situazione. Ti devo chiedere, Tony, un minuto di pazienza. C'è anche Danilo da Genova che ha già chiamato, 800 24 00 24. Voglio chiederti anche cosa pensi della Juventus, dei gol poco nobili. Oggi a Bergamo, però prima c'è il traffico. Io sto qua da 10 minuti e vengono sempre tutti davanti. Tutti convocati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta... convocati. 800 24 00 24. Poi vi leggo un fiume di messaggi sulla questione Mihajlovic, Berlusconi, Balotelli, il triangolo delle Bermude in cui è sparito il campionato del Milan questo pomeriggio contro il Sassuolo. Chiedo un attimo di pazienza a Danilo da Genova. Tony, ti è piaciuta la Juve di Bergamo? Sì, e mettimela a confronto col Napoli di ieri sera, facciamo così. Beh, il Napoli è partito ad handicap, pronti via. Sì. E però ha un animale là davanti, un animale nel senso buono, che ti risolve le partite, che come poi l'anno scorso alla stessa Juventus con Tevez. Quindi la Juventus oggi ha giocato una partita lineare, sono sorpreso ma al tempo stesso felice per questo gol di Lemina, per un semplice motivo che Lemina, che ha soltanto 22 anni, sì, ha un problema gravissimo alla cartilagine del ginocchio. E si pensa, si teme, si dice che la sua carriera sia sempre a rischio, nel vero senso della parola, perché quel tipo di buco, tanto per dire volgarmente, nella gamba, nel ginocchio, non può essere messo a posto. Quindi una Juventus lineare, sotto questo punto di vista, come al solito tenuta in piedi dai momenti in difesa, compreso il portiere, che continua a essere imbattuto. La Juventus che non è che ha cancellato la sconfitta di San Siro con l'Inter, perché a San Siro la Juventus ha giocato, come tutti sanno, la peggiore partita dell'anno, quindi non ci voleva molto a giocare una partita. Sì, però qualche traccia poteva anche lasciarla, poteva no, magari minare no, qualche certezza. No, in casa juventina, per tradizione, se ti trascini quella sconfitta non indossi quella maglia. Guardate la prestazione oggi sia dei difensori, Barzagli per esempio, che è andato al gol, insomma stiamo parlando non di un ragazzino, e poi la prova maiuscola di Dybala, che è, come ho sempre detto, un fuoriclasse, a differenza di Pogba, che è un buon giocatore, un ottimo giocatore, ma non è un fuoriclasse. C'è una sopravvalutazione del francese e ancora non la giusta valutazione, ma non da parte di tutti, dell'argentino. E così facendo le cose per la Juventus si sono messe meglio. c'è sempre questa lotta con il Napoli. Sì, lotta che secondo me nelle prossime quattro giornate darà un verdetto, perché il calendario del Napoli è oggettivamente più semplice di quello della Juve. Se non si avvicina nelle prossime quattro la vedo dura. Grazie Tony. Ciao Tony, grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Tony Damascelli. Oh, Mihajlovic si iscrive nell'elenco degli allenatori rovinati da Balotelli. Mihajlovic ha fatto bene perché Balotelli si era meritato un'altra chance. Chissà quando, forse con l'Alessandria. Non ma lo so. L'ha visto, ha sfidato pubblicamente Berlusconi. Ma oggi è stato l'intero Milan, è riduttivo parlare di... A sfidare Berlusconi. A sfidare Berlusconi, certo. E la fiducia. Marco da Firenze, Marco, 800-24-0024. Dai. Buonasera, grazie. Oh. Io ho già avuto modo di intervenire, anzi vi ringrazio del passato, in un periodo in cui, per esempio, l'Inter vinceva 1-0 senza far vedere niente di buono di gioco. E io dissi, ragazzi, guardate che questo poi salterà fuori come un elemento veramente negativo. E adesso si vede, perché purtroppo... Quando adesso c'è bisogno di dimostrare un minimo di tattica, un minimo di gioco, purtroppo il buon Mancini non è in grado di far funzionare la squadra. Come d'altronde, secondo me, ha sempre fatto in qualche maniera vedere lui, cioè un allenatore che non riesce a dare un'impronta tattica alle proprie squadre. Col Manchester, ricordiamoci, lui ha vinto il campionato all'ultima partita, all'ultimo minuto, con una rosa che anche qualcuno di noi avrebbe potuto vincere il campionato inglese. E poi Pellegrini è un campionato, come scrivono gli amici qualche settimana fa, che è chiaramente condizionato dall'Etihad che si era comprata l'ultima partita. Sono sciocchezze, queste dietrologia. Alla fine è vero, ha vinto il campionato all'ultimo minuto, però era oltre mezzo secolo che il City non vinceva, quindi... Insomma, non si può togliere a Mancini quel titolo, così come non è ingiusto togliergli gli scudetti che ha vinto con l'Inter. Poi possiamo le motivazioni collaterali le conosciamo tutti. Su questa Inter, io sono curioso di vederla stasera con il Palermo, perché è chiaro che ha giocato l'altra sera la miglior partita stagionale. Non so se sia un caso, un fuoco, o il prodotto delle parole di Ausilio. Aspetta, intanto lo chiediamo a Benny Carbone, che saluto. Ciao Benny. Ciao, buonasera. C'è questo tema, poi ne parleremo nella seconda ora. Se basta che un dirigente vada davanti alle telecamere a dire che la squadra non ha le palle per provocare... Attenzione, l'ha detto anche Moratti, Giovanni. L'ha detto anche Moratti, non solo Ausilio. Benny, tu che quell'ambiente lo conosci, conosci gli spogliatoi. La domanda era a me. Sì. No, non credo che... Non basta. No, ma poi, voglio dire, non è che la squadra non abbia le palle. Io credo che alla fine... Mancini ha in mano veramente una rosa molto competitiva. Ausilio stesso credo che abbia costruito insieme ai suoi collaboratori una squadra e una rosa molto valida per arrivare all'obiettivo che loro si sono creati a inizio stagione, che è quello minimo di arrivare terzi. Il problema credo che sia un altro, il problema credo che sia proprio che Mancini quest'anno non sia riuscito ancora, credo, a dare un'impronta di gioco alla squadra, perché per vari motivi, perché non ha mai giocato con gli stessi giocatori, perché comunque si è cambiato molto spesso modulo e quindi la squadra non ha avuto neanche il tempo nei meccanismi appunto per cercare di esprimersi al meglio. Sì, detto questo, se stasera batte il Palermo in questa gara d'eliminazione per il terzo posto, resta ancora in corsa, perché comunque detto questo, si metterebbe in coda alla Fiorentina. Non si possa discutere a Mancini. Io ho sentito la fine del vostro discorso e non mi sento assolutamente di discutere a Mancini, non mi sento assolutamente di dire che Mancini è diventato adesso di colpo un cattivo allenatore. Credo che non sia così. Sì, ma gode di pessima stampa in Italia, almeno da parte dei tifosi, soprattutto quelli dell'Inter oggi. Aspetta Benny, c'è Allegri che sta iniziando a parlare ai microfoni di Sky. Danilo da Genova. Danilo. Sì, eccoci, allora sentiamo le prime battute di Allegri su Sky. Allegri. La vittoria è importante, giocata con un buon primo tempo, abbiamo avuto occasioni nel secondo tempo dove abbiamo sbagliato scelte di passaggio e dopo alla fine non abbiamo gestito la palla, credo che soprattutto nell'ultima mezz'ora del secondo tempo dovevamo fare meglio e gestire più la palla, anche se il campo non ce lo permetteva o ci creava delle difficoltà. Qual è stata la cosa che le è piaciuta di più e quella che le è piaciuta di meno, al di là del discorso della gestione della palla? Ma l'approccio alla partita è stato un buon approccio, potevamo segnare subito, raddoppiare, c'è stato anche un buono sviluppo, delle buone trame di gioco, poi dopo quando abbiamo, nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare è normale che loro hanno cominciato a tirare palloni in aria e si è rischiato qualcosa. Ma non c'è Mangio, questo che Allegri, non c'è Dybala, cui intanto è tornata la voce rispetto a ieri. Danilo, prego. Eccomi, grazie, convocatissimo, grazie per avermi convocato. Grazie a te. Niente, due considerazioni, volevo sapere cosa ne pensavate. Ecco, io premetto, sono interista e volevo dire che dalla partita con la Lazio prima di Natale sono sprofondato gennaio e febbraio in due mesi praticamente di depressione con l'Inter. Poi l'altra sera con la Juventus per me è stata una partita, diciamo, di altri tempi. E ancora prima che iniziasse ho pensato a quelle rimonte incredibili che faceva Real Madrid negli anni 80, che perdeva sempre fuori casa e poi ribaltava sistematicamente sempre. Quello di Santillana, Butragueño, Sanchez. Ecco, insomma, mi sono riconciliato col calcio, perché ho detto, insomma, ho visto una partita di altri tempi. Però ecco, volevo sapere da voi cosa ne pensate. Secondo me Inter e Milan onestamente hanno due rose che oltre alla qualificazione per l'Europa League, bisogna essere onesti, secondo me non possono andare. E bisogna, secondo me, dare almeno ancora un anno di tempo, perché non si può pretendere che da un ottavo, settimo, nono posto si passi direttamente a un secondo, terzo. Cioè sì, in Italia il problema, Danilo, è quelli che possono essere i piani societari in un caso, quello dell'Inter, quello che è il feeling mai nato tra presidente e allenatore, questo è il caso del Milan. Poi sull'Inter discorso regge, ma se tu hai un bonus di 10-12 punti di vantaggio dalla Roma, quel bonus te lo devi portare fino a maggio. Fino in fondo. Benny, sei d'accordo? Cioè, quella è la colpa dell'Inter. Sì, sì, sono d'accordo perché non dovevo assolutamente perdere tutti questi punti nell'ultimo mese e mezzo, negli ultimi due mesi. Insomma, l'Inter non sono d'accordo sul fatto che abbia la rosa uguale a quella del Milan, perché la rosa dell'Inter è molto più competitiva di quella del Milan. Mihajlovic sta facendo veramente un gran lavoro con la rosa che ha e sta facendo veramente il massimo di quello che può fare. Credo che l'Inter invece per la rosa che aveva e ha la possibilità comunque di essere nelle prime tre. Aveva il dovere, secondo esatto. me, vista la partenza della stagione. Vista la partenza della stagione, a pensare che la Roma sia più forte come rosa, come monte talento. È uguale lo stesso discorso della Juve. La Roma è una delle squadre che, secondo me, ha la rosa molto più forte di quella dell'Inter. Quindi, io sapevo benissimo che se in quel momento lì, e l'ho anche detto, che se in quel momento lì la Roma avesse cambiato allenatore sicuramente avrebbe fatto sarebbe ritornata di nuovo in corsa. Non pensavo in questo modo, perché comunque Spalletti ha fatto un grandissimo lavoro mettendo subito le mani dove doveva metterle, ovvero nella fase difensiva, perché soffriva. Ma la Roma tantissimo. È ancora in corsa, perché dice Allegri di sì, sostiene che la Roma sia ancora in corsa. Ma per lo scudetto? Sì. Ma Allegri lo dice perché comunque non può essere facile fino alla fine. Però credo che la Juventus quest'anno abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra più forte e difficilmente si farà riprendere. E credo che alla fine la Roma si gioca al secondo posto con il Napoli invece, perché il Napoli non può più sbagliare. Ti è piaciuto ieri sera? Sì, ma il Napoli non può non piacere, dai. Il Napoli gioca bene, anche quando ha avuto quelle 3-4 settimane di difficoltà comunque ha giocato bene. Ha avuto, secondo me, una problematica di giocatori che fino a quel momento lì erano stati determinanti, tipo Insigne, tipo Higuain, tipo lo stesso Callejon, che hanno avuto un momento di appannamento. Ecco, adesso questi giocatori qui sono tornati di nuovo a girare ed ecco di nuovo il Napoli che diverte, che crea 20 palle da gol ogni partita e che subisce poco. Sì, ieri non c'era Allan, a proposito di giocatori stanchi, sì, anche Sarri ha scoperto il turnover in campionato. Deve farlo, Sarri. Grazie Benny. Ciao Benny. Grazie a voi. Grazie Benny Carbone. Riusciamo a fare Antonello da Treviso, che ci aspetta da una vita. Antonello. Ah, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, grazie per avermi concesso di parlare. Allora, è da mercoledì che nell'ambito del giornalismo si intensa l'Inter. Grande Inter, mancavano 8 giocatori della Juve e il primo gol di Medel, fallo. Sì, okay, ne mancava, Antonello, giusto per completezza, ne mancavano anche 7 dell'Inter rispetto alla partita della domenica in campionato, però prego. Per forza, per non perdere altri 2-0 ha cambiato la squadra, no? Sì, insomma, se D'Ambrosio Mancini centrale è meglio di Miranda e Muriglio e quindi è una scelta e non il prodotto della squalifica. Per l'allenatore. No, erano squalificati, però prego. Ok, all'andata fallo di mano di Medel, non detto niente. Al ritorno fallo di Medel, detto niente. Grande Inter, interessata l'Inter. Ok, prima di Juve-Napoli, solite interviste, Simoni, famoso, rigore, sì, di Recoba. Anche a Ceccarini, ecco, abbiamo letto di tutto. Dopo andiamo dal mitico Zeman, quello che vince sempre. Sì, ma cosa vuoi dire, Antonello? Che poi abbiamo tutto, la pausa. C'è tutto, no, sì, c'è tutto l'ambiente che non vede ora che la Juve perda. Abbiamo pareggiato le due col Bayer, un gol in fuorigioco e un rigore non dato, detto niente. Cioè tutto quanto. Ma quella è la grande forza della Juve, che fa 2-2 una partita di quel genere, rovinata dall'arbitro e non dice ambiente, nulla. Per ambiente cosa si intende? Stampa, giornalisti, TV? Tra la Juve e l'Inter, tra la Juve e la Roma, tra la Juve e il Napoli, che quando c'è un episodio contrario, giornali, inchieste, parlamentari, tutto quanto. Questa è la differenza della squadra. Ecco perché la Juve vince, gli altri invece vincono. Antonello, l'hai presa bene che la Juve ha vinto a Bergamo. Comunque... è la tua idea, secondo me è una prova di forza della Juve, anche il fatto me, di non fermarsi più del necessario a parlare di arbitri. 800 24 00 24, poi arriva Demetrio Albertini, adesso c'è la pausa, arriva anche Pierluigi Pardo, già. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Tutti convocati. Solo di prima, c'è già il cannibale in cima, io che devo volare a prenderlo. Se io sono innamorato del ciclismo, fin da bambino mi ricordo, quando ero piccolo, che c'era il cannibale, è di Metz, Tour de France non ce n'era per nessuno, cannibale sono loro. Purtroppo noi siamo Thévenet o Cagnat, però un anno ha vinto Cagnat, questo ci dà un minimo di speranza, però il cannibale sono loro. Sappiamo che stiamo combattendo il mostro, senza perdere di vista che c'è una Roma e sta facendo cose straordinarie. Devi dare tutto prima che ti faccia passare, io non mi lascio andare, non ti voltare, sai che ci sarò. Si può tentare di sognare se c'è delle squadre che hai 3 o 4 punti davanti, come è successo con queste qui che ci precedevano, poi quando sono arrivato, che qualcuna non faceva vedere che era convinta delle sue qualità, che qualcuna poi una partita la vinceva, una pareggiava, una perdeva. Queste qui vincono sempre, per cui noi c'è da continuare così per non permettere a questi di stasera di recuperare questi 3 punti, perché questi sono una grandissima squadra. 800 24 00 24. Anche Merckx ogni tanto perdeva. Ciao Cagno. Parole di Sarri, canzone di Enrico Ruggeri, Gimondi e il cannibale. Ciao Pier. Come va? Anche Merckx ogni tanto perdeva, la Juve no. Beh, perde in Coppa Italia e comunque va avanti. Però ieri sera a me è piaciuto moltissimo il Napoli, che tu hai visto e commentato. La Juve vince anche quando perde, come è stato il discorso sulla Coppa Italia. No, il Napoli mi è piaciuto, ma io credo che sia ancora un duello aperto. Credo che il Napoli adesso abbia un momento di calendario molto interessante, molto positivo. Poi dopo diventerà più duro, perché poi ci sarà Inter-Napoli, ci sarà Roma-Napoli, quindi in assoluto bilancio da qui alla fine secondo me non è favorevole al Napoli, però le prossime 4 partite potrebbero regalare al Napoli qualche sorpresa positiva, al di là del fatto che, come dice Spalletti, questi vincono sempre, questa è la verità, ha ragionissima Spalletti, e credo che a Roma si stiano mangiando le mani, perché forse con un mesetto prima d'anticipo adesso la Roma sarebbe almeno in corsa. Il Napoli ieri mi è piaciuto tanto, la Juve anche mi è piaciuta oggi, però per la forza mentale, la tranquillità di una squadra, a parte che è una squadra che non subisce gol, quindi è anche abbastanza difficile possa perdere dei punti, visto che certo non gli segnerò mai. Quindi. Sì, anche se oggi si è tenuta l'Atalanta incollata fino a 4 minuti dalla fine, secondo me Allegri non ha apprezzato, prima l'ha detto, l'abbiamo sentito nelle prime battute del post partita. Qualcosina concesso. Qualcosina in fondo ha anche rischiato prima del gol di 2-0 di Lemina, ci sono state un paio di situazioni in cui la difesa ha oggettivamente un po' ballato. Davide d'Alessandria, Davide 800-24-00-24, noi vogliamo fare il processo a Mihajlovic, la sua ribellione nei confronti di Berlusconi, ma c'è un amico ad esempio che scrive, un amico di Mancini ha vinto uno scudetto con l'Inter e l'anno dopo il portoghese ha vinto tutto, sono gli amici di Mancini che scrivono. Davide, prego. Buonasera a tutti. Io provo a fare un ragionamento così e poi vediamo se sono troppo lontano dalla verità. Io credo che il gap tra la Juve, il Napoli, Roma si sia azzerato completamente, perché se andiamo a vedere i campionati degli scorsi anni, tra la prima e la terza, a questo punto del campionato c'erano circa 15-20 punti, sì. Poi voi lo sapete meglio. Non dimentichiamo da dove è partita la Juve. Certo, però c'è da dire una cosa, c'è da fare i complimenti ad Allegri, perché è fantastico, per come io sono un tifoso della Roma, però lui è fantastico, perché lui sfrutta il massimo che ha a disposizione, il massimo della sua squadra è la linea difensiva. Come difende la Juve? Non c'è squadra in Europa che difende, sono i più forti in assoluto, perché se andiamo a vedere la partita di oggi, hanno fatto una partita pessima sul livello del gioco, cioè io ho ancora in mente la partita di venerdì della Roma e quella di ieri del Napoli, dove giocano a calcio, dove sono squadre che giocano a calcio, la prima cosa che pensano è quella di fare il gol. Non sì, dire che la Juve non giochi a calcio mi sembra un po' azzardato, è forse in un momento diverso di fisiologica flessione, no, anche psicologica. È esteticamente meno bella, su questo io sono abbastanza d'accordo, ma la categoria della bellezza estetica nel calcio conta relativamente poco, nel senso che poi conta la continuità di rendimento, e devo dire che anche a livello internazionale, dove poi no, uno potrebbe fare questo ragionamento, potrebbe essere vabbè, la Juve è forte, è solida, però poi se alzi l'asticella, invece no, perché se alzi l'asticella vedi che la Juve è ancora in corsa contro il Bayern, e molto più di quanto la Roma c'è in corsa contro il Real, e il Napoli è uscito col Villarreal. Quindi possiamo essere d'accordo che quel pacchetto difensivo sia il più forte d'Europa, o certamente sul podio nei pacchetti difensivi europei. Aspetta, già che ci siete, allarghiamo il discorso anche a Demetrio Albertini. Ciao Demetrio. Ciao. Poi ti chiediamo la pagella alla difesa della Juve. Prego Pier. No, quindi capito, secondo me poi però in assoluto tante volte è anche un po' fuorviante, no, associare il concetto della bellezza estetica, della spettacolarità di una squadra a quello dell'efficacia, perché sono due categorie completamente diverse. Che il Napoli abbia dal punto di vista offensivo e la Roma abbia dal punto di vista offensivo qualcosa in più rispetto alla Juve, questo è indiscutibile, basta guardare i numeri del campionato e vedere chi sono i due migliori attacchi, però complessivamente la Juve è la squadra più completa, è più forte, più abituata, quindi questa è la fredda cronaca. Detto questo, il campionato se ne può ancora riservare qualche sorpresa. Demetrio, tu come la pensi? Io penso che la Juventus sia la squadra più forte, ha avuto la fortuna anche di programmare un cambio di alcuni giocatori, ha sofferto parecchio all'inizio, io non me l'aspettavo, e soprattutto ha una società che sa quello che vuole e alla fine anche nei momenti di difficoltà è stato vicino al suo allenatore, al gruppo tecnico e ai suoi giocatori. Detto questo, è l'unica squadra secondo me internazionale a livello proprio europeo. Sì, e non solo per quello che esprime in campo, anche a livello dei famosi fatturati, e non solo. Questa è la settimana che si è parlato di Superlega, si è parlato di mille cose, credo che difficilmente in Superlega potrebbero entrare ad esempio oggi le due milanesi, anche per livello di gioco, per livello di, non so come la pensi tu, ci sono in tanti che scrivono che Mancini è il vero male dell'Inter, sono tanti che scrivono che Mihajlovic è l'ennesimo buon allenatore bruciato da Berlusconi aspettando la tempesta di questa settimana. Le abbiamo già sentite troppe volte, che noia. Ma per quanto riguarda lì quello che è il primo tema Superlega, non lo so adesso quello che vogliono fare. Devo dire che mercoledì ho incontrato, ero a Monaco, ho incontrato il presidente dell'ECA e mi ha spiegato un po' che c'era un po' di difficoltà, perché il problema tante volte le nostre squadre in questo momento, i nostri club, è pensare sempre ad avere un diritto per la storia, no? E invece tutti gli altri hanno pensato a costruire per entrare nelle migliori club più importanti d'Europa. E quindi bisogna capire se bisogna guardare l'attualità a livello sportivo o il passato. Per il passato il Milan e l'Inter ci starebbero dentro sempre, no? In questa Champions League, chiamiamola così, e non diciamo altre cose diverse. Per il presente un po' meno. Per il presente penso proprio di no. Abbiamo il traffico, poi torniamo, stiamo aspettando anche Mihajlovic, che evidentemente ha un dopo partita non semplice dopo la sconfitta col Sassuolo. 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Sempre in attesa di Sinisa Mihajlovic, annunciato molto arrabbiato con i suoi e con gli arbitri. Tu avresti fatto giocare Demetrio Balotelli dopo la prova con l'Alessandria? Ma è sempre difficile. E con Berlusconi che ti ha detto che vuole Menez. Secondo me è sempre difficile parlare di una scelta di un allenatore nello specifico. Io dico che Mario non è così semplice per quanto riguarda la sua avventura al Milan, perché arriva da un paio d'anni dove alla fine ha avuto grandi difficoltà e poi bisogna capire quanto lui abbia voglia di confrontarsi e mettersi in discussione. Questo non l'ha ancora dimostrato, la voglia che lui ha di mettersi in discussione. Un po' di tempo è passato. Pier, dando la partita di oggi poca. Io però voglio spezzare una lancia a favore di Mihajlovic. Secondo me un allenatore deve essere coerente con le sue idee, Pier. E quindi se lui ritiene che Menez non sia in condizione nemmeno di cominciare, quindi possa fare giusto la mezz'ora finale, 40 minuti come ha fatto oggi, e quella è la rosa del Milan. Allora, Mihajlovic innanzitutto arrivava da un buon momento, da un ottimo momento, perché il Milan aveva perso una partita delle ultime 17, ha centrato la finale di Coppa Italia, aveva una tendenza assolutamente positiva, e devo dire la verità che oggi nella prima mezz'ora ha fatto meglio del Sassuolo, è stato per certi, non voglio dire sorprendente, ma è stata una conferma del trend positivo questo inizio di partita. Poi la partita ha veramente girato, insomma, è stata veramente slaridosa, perché il Sassuolo segna la prima vera occasione e allora, come d'incanto, vengono fuori tutta una serie di limiti, di paure, di preoccupazioni del Milan attuale, che è una squadra che era appena uscita da una fase di convalescenza e che mi sembra invece oggi poi di fronte alle difficoltà di fronte a un'ottima squadra, perché Sassuolo può cominciare anche a pensare all'Europa League. Aspetta che ti faccio rispondere da Mihajlovic, microfono di Sky. Sono molto arrabbiato con noi stessi e anche con gli arbitri, però degli arbitri non voglio parlare. Posso parlare della partita dove noi primi mezz'ora abbiamo dominato, ma come spesso succede non riusciamo a fare gol. E non si può, dopo aver dominato la partita, aver creato 4-5 occasioni di gol, prendere un gol su primo tiro in porta, soprattutto su uno schema che noi sapevamo che loro avrebbero fatto e che noi l'abbiamo provato, abbiamo preparato e tutto, ma non siamo stati concentrati. Dopo aver preso gol, squadra ha perso le misure, non è stato più Milan che voglio io. Ce l'hanno visto, hanno giocato, hanno vinto. Basta, sicuramente una sconfitta che brucia, però non dobbiamo dimenticare quello di buono che abbiamo fatto fino ad oggi. Cioè adesso prepareremo bene la prossima partita a Chievo, sapendo che sarà una partita complicata, dove dobbiamo cercare di giocare meglio e vincere. Fino ad oggi la striscia positiva era di 9 questo partite. Questo Mihajlovic, dopo la sconfitta con il Sassuolo, dice: non voglio parlare degli arbitri. Oggi Mihajlovic è espulso, il gol del 2-0, l'azione andava fermata qualche istante prima per un fallo abbastanza netto di Biondini su Bertolacci, tra l'altro davanti agli occhi non solo dell'arbitro ma anche dell'assistente di destra, incomprensibile il mancato, sì, però, il mancato fisco, ma tanto niente, adesso arriva la moviola in campo, adesso arriva, quindi la moviola in campo, cambierà tutto, manca vero, solo quella, manca solo quella, no, siamo tutti favorevoli. Demetrio, no, tu come la pensi? Ma personalmente anche, cioè, bisogna leggerlo bene, bisogna anche sperimentare, fare sperimentazione. Sinceramente la mia domanda è oggi che mi nasce un po' spontanea. Nel momento in cui si può fermare un'azione che poi si tramuta in gol per un fuorigioco, per un fallo, nella situazione contraria dove l'arbitro sbaglia fischiando un fuorigioco che non c'è, lasciando un giocatore davanti al portiere da solo, diventa quindi una chiara azione da gol, diventa una situazione un po' diversa. Sì, tu dici perché, quindi, in quel caso. Quindi bisogna sperimentarla, è normale che già il punto che deve essere a disposizione dell'arbitro per dopo dare una valutazione, quello possa essere favorevole. Alla moviola in campo, come viene chiamata così, e devo dire che oggi Collina l'ha sottolineato, non chiamatela moviola, perché noi italiani siamo bravi a chiamare moviola. Sì, ma noi sintetizziamo che... per chiarezza, perché sennò... Ecco, quindi sì, per chiarezza, però può essere un aiuto per l'arbitro. Va bene catalogata e giustamente oggi forse perché non provare. Io personalmente rimango sempre un po' scettico, personalmente, però è giusto provarla. Pier, a te piace? Detto che il gol del Sassuolo del 2-0 oggi, credo, per la casistica insomma che verrà studiata, sarebbe stato annullato. Così sì, lo diciamo agli amici. Guarda, a me piace molto, io l'ho sempre detto, la tecnologia sulle situazioni metriche. Ieri c'è stato un esempio straordinario in Tottenham-Arsenal, una parata di Ospina di qualche centimetro col pallone che non aveva superato la linea, ecco, la goal line technology. Sì, però lì è proprio... facile, poi parliamo con Casarin, lì è facile. Ci ho voluto 30 anni, quella cosa lì mi piace moltissimo. Anche a me. Per tutto ciò che riguarda l'aspetto strettamente metrico, se il pallone è uscito, se il pallone è entrato, perché non bisogna avvalersi della tecnologia, ti chiude le polemiche. Sulla moviola in campo qualche dubbio ce l'ho, nel senso che io, come diceva Demetrio, cioè, ho un dubbio su tutte quelle situazioni dove l'intervento della moviola finisce per alterare la normalità dell'azione, sulla dinamica, sul meccanismo. La filosofia, per carità, mi piace, perché tutto ciò che tende a ridurre, quantomeno che riduce gli errori, anche se non li annullerà al 100%, anche se riparando delle situazioni grigie, però sicuramente va bene, sì, tutto, insomma, è tutto utile. Positivo, però. Il meccanismo però a me ha colpito che il più scettico sia Collina. Cioè, il capo degli arbitri europei. Ha ragione, Demetrio. Ma dico una cosa, forse io sono nelle due commissioni, sia in quella FIFA che in quella UEFA, quindi proprio per i regolamenti e lo sport. Se ne è discusso da tanto tempo queste situazioni. Un po' erano suddivisi, ma io dico sempre che è una scelta un po' politica tra UEFA e FIFA, no? Dove uno diceva che ci volevano gli arbitri di... Poi è arrivata l'FBI quindi... E ha anche che sulla tripla qualcosa. Sanzione se ne è discussa tanto, sì. E si è aperto anche tanto. Sono d'accordo con Pier sulla metrica, può essere un qualcosa importante. Il problema è che la televisione non potrà mai valutare, siccome è uno sport di contatto il calcio, non potrà mai valutare la forza con cui viene toccato l'avversario. Quindi quello diventa sempre un qualcosa di difficile. Quello della metrica sì, perché dentro l'aria, ce l'abbiamo fuori già. Dall'aria. Sì, posto che ad esempio però sul fuorigioco la metrica si deve mettere insieme alla discrezionalità. Questo weekend ho visto delle chiamate ai limiti della perfezione, di una difficoltà clamorosa, anche ieri sera nella partita del Napoli. Ho visto i guardaline in grande spolvero, onestamente, in questa domenica. Perché non lasciare la discrezionalità allora? Diciamo anche che prima di tutto, specialmente noi italiani, dobbiamo cominciare ad accettare anche un errore, che ci può essere, perché sia dal giocatore o meno. Come ho detto, l'aiuto può essere un qualcosa di vantaggioso, soprattutto sulla metrica, questo sì. Grazie Demetrio. Ciao Demetrio. Ma poi lo accettiamo, noi italiani. Vi leggo questo messaggio che è appena arrivato via WhatsApp. Moviola in campo e goal line varranno per la Juventus, perché noi siamo italiani e lo accettiamo. Certo. Sai che cosa facciamo? Chiediamo agli amici da casa, giochiamo un po' con la fantasia di telefonarci o scriverci per dirci quale partita storica, quale episodio. Ricordo che con la moviola sarebbe andato diversamente, avrebbe cambiato. Poi riscriviamo tutto. Sì, riscriviamo la storia del calcio. Pier, lo facciamo dopo le 18. Chi è? Sinisa, presidente, sono, buonasera. Sono il presidente, sì, mi però, sento però male. Non c'è Mihajlovic. Non... Sinisa, non fare sempre Guascone. Sì. Oggi mi sei sembrato poco coeso e sì, per nulla. Sì, però non siamo Mihajlovic, ho sbagliato numero, tutti convocati a Radio 24, Capuano. Sì, e io invece, sì, Capuano, sì, io invece sono Rocco Siffredi e ti faccio un culo. No, questa è Radio 24, anzi adesso c'è il GR, cosa, dobbiamo andare. Cosa ti avevo detto prima della partita, Sinisa? Non ci aveva detto niente. Non ti avevo detto all'inizio, con Bacca no, Balotelli sì, Menez. E tu cosa fai? Sì, Balotelli no, Menez. Sì, ma non l'ho fatto io. E ti avevo pure, Sinisa, e ti avevo pure detto che su Duncan dovevi metterci Kuzka. E invece a mettercelo dove non batte il sole... Non è stato, c'è il GR, presidente, ha sbagliato numero, riprovi. GR, torniamo subito. Pier, stai lì. Finisce qua, senza recupero il primo tempo. Gran spettacolo. Tutti convocati. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Tutti convocati. Oh, il nostro sondaggione su come sarebbe cambiata la storia del calcio, sì, con la moviola che forse tra due anni diventerà operativa. Ma sì, c'è chi dice, ma questa era anche banale, è inutile che vi sforziate, non state a perdere tempo, dite che con la moviola in campo la Juve avrebbe una decina e sto basso di scudetti in meno, Stefano da Firenze. E poi c'è chi chiede perché invece la moviola non si introduce il tempo effettivo. Poi chi ricorda che Guardalini venerdì sera Roma-Fiorentina hanno combinato disastri, è vero, hanno combinato disastri in Roma-Fiorentina. 800-24-00-24, però noi siamo qui, aspettiamo i vostri suggerimenti su come la moviola avrebbe cambiato la storia del calcio. Andrea da Forlì. Andrea? È caduto. Eccoci. Complimenti per la trasmissione. La Juve, sì, la Juve vince da 6-7 partite, non gioca bene. Sì. Si difende bene, non dà spettacolo, praticamente come l'Inter all'inizio, sì, identico. Gli errori li fa commettere agli avversari, perché l'errore clamoroso di D'Ambrosio e quello di oggi del difensore che si addormenta. Sì, imbarazzante, l'Atalanta sul gol imbarazzante. Sì. Sono imbarazzanti, e non voglio dire che la Juve è fortunata, però è brava e fortunata, come l'Inter le prime 15 partite. Sì, con qualche certezza in più, con qualche certezza in più. Prima stavamo parlando di estetica e di da contrapporre ai risultati. Mi sembra che la Juventus sia altra cosa rispetto all'Inter dell'inizio, se mi consente. Pardo, ci sei? Pier? Sì. Ma non so. No, non c'è Pier. Va bene, Marco da Caserta, Marco. Pronto? Eccoci. Ciao. Non c'è il mio amico Pierluigi? Adesso lo stiamo agganciando, comincia a dirci quello che vuoi dire. No, lo volevo salutare. Adesso te lo facciamo salutare. Ok, ringrazio, aspetto. Comunque ti volevo dire, non so se ne avete già parlato perché vi sto sentendo da un quarto d'ora, sì, del possibilissimo record di imbattibilità di Gianluigi Buffon. Sì, possibile, gli mancano 94 minuti. Io da milanista... sto gufando, perché sono naturalmente affezionatissimo a quel record del Milan degli imbattibili. Anche perché, e qui cerco di essere, credo di essere imparziale, a prescindere sì, scusa, dalla mia fede. Giusto per dirlo a tutti gli altri, i non milanisti, 929 minuti di Sebastiano Rossi, prego. Bravo. Cerco di essere imparziale non perché sono milanista, ma secondo me, anche se dovesse raggiungerlo, io credo che, detto che Buffon è più bravo di Rossi, per carità... però sarebbe un insulto, diciamo, a quella difesa. Secondo me quella è stata la difesa più forte di tutti i tempi. E il campionato era di gran lunga più difficile dell'attuale. quindi sì, sarebbe un record perché ha tanto di cappello, ma secondo me comunque non sarebbe paragonabile, non so tu che ne pensi, a quel tipo di record per la squadra che il Milan era più forte, sì, per quel campionato che era molto più complicato. Adesso aspetta che abbiamo agganciato Pier, così ti facciamo salutare, sì, sì. Pier, ci sei Pier? Aspetta che perfezioniamo il collegamento. I record sono record, Sì. Record sono record, pesano uguali in epoche diverse, ma è normale che ogni minuto sono 60 secondi. Bravo, vengono parametrati comunque a quel grande libro che è la storia del calcio. Poi noi possiamo fare i record con gli asterischi, no? Sì, c'è anche chi dice, scriveva, il record di Buffon vale di più perché con i nuovi palloni è più facile incassare gol. Ho capito, più facile incassare gol, con quelli più vecchi è più difficile. Insomma, stiamo parlando di rana caprina. Ripeto, non ci sono record con gli asterischi. Se Buffon fa questo record, poi, cioè, voglio dire, un portiere come Buffon è già comunque nella storia del calcio, quindi andrebbe ad impreziosire con il suo palmarès con quest'altra medaglia, ma i record sono record. Pier? Sì, ma non contiamo più niente, sono d'accordo con voi, i record sono record, me lascio il tempo che trovo, per poi alla fine più dei record contano le vittorie, le coppe, i trofei, gli scudetti. Ma era più forte quella difesa del Milan o questa della Juve? C'è un amico che ha scritto subito Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, altro che quelli che abbiamo citato adesso. No, io credo che Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea fossero chiaramente una difesa pazzesca, però se ci riferiamo alla nazionale, quella difesa lì, la nazionale è diventata mitica perché ha vinto il mondiale. Se parliamo invece della difesa del Milan degli invincibili, che è stata una difesa assurdamente forte, se mi passi questa espressione, io credo che però questa difesa della Juve si avvicini molto, quindi secondo me siamo lì, e non è un caso che poi la sfida ormai sarà minuto a minuto, no? Perché ma poi 94 minuti, ecco, c'è Juve-Sassuolo, 94 minuti c'è Juve-Sassuolo, e poi che non è l'avversario più comodo da questo punto di vista, poi c'è il derby col Torino. E vedremo, insomma, se il traguardo verrà. Sì, però se scavalla Juve Sassuolo o incassa gol nel primo minuto, nei primi due minuti del derby, oppure statisticamente fatta. Simone da Roma, Simone. Grazie, buonasera a tutti. Prego. No, prima parlavate di episodi che avevano cambiato la storia, sì, del calcio. E il mio sarà banale, però è stagione 97-98, Juventus-Inter Montero su Ronaldo. Giuliano su Ronaldo. Allora, aspetta, c'è la musichetta dedicata alla ricostruzione cold case della moviola. Ci fosse stata la moviola allora. Me lo fate sentire Giuliano Ronaldo. Dai, è un grande classico. Arriva Zamorano e va boom boom, attenzione, liscia Ronny, messo giù, è rigore incredibile, Simone in campo, signori, l'Inter in campo, tutta la panca, incredibile, non ha dato un rigore grande e adesso danno un rigore alla Juve, non ci voglio credere. Però questa è di parte, questa è la radiocronaca di Scarpini. Divertente. Molto divertente. Allora, non c'era Inter. Avrebbero dato rigore o no con la moviola, Pier? No, appunto. Dai, io facciamo un po' di archeologia calcistica. Non voglio fare archeologia, è che appunto quello che dicevamo prima con Albertini, cioè c'è tutta una serie di situazioni nelle quali la moviola non risolve. Nel senso che poi la valutazione è una valutazione di danno procurato. Quindi estremi o no per il calcio di rigore, di tipo di contatto, di entità di una spinta, di eventuale giocatore che accentua la caduta, tutte queste situazioni. Tu sai che Ceccarini settimana scorsa al Tirreno ha detto che rivisto oggi avrebbe dato punizione alla Juve. Vabbè, adesso non so, Ceccarini probabilmente in questi anni avrà vissuto dei problemi per questa vicenda e quindi adesso probabilmente... Ma perché non introduciamo la prescrizione, Pardo? Cioè, no, quello dopo a prescindere. Facciamo tre giorni. Se dipendesse da me, no, ma comunque voglio dire, è chiaro che quell'episodio lì si è inserito in un contesto che era un contesto complessivo di una critica che gli interisti avevano fatto anche su altre situazioni nei confronti della Juve. Quel rigore lì secondo me ovviamente si poteva dare, cioè, non c'è discussione sul fatto che si potesse dare, però rientra nell'ambito degli episodi che secondo me poi vengono sbagliati con la discrezionalità arbitrale, quindi nei quali la Moviola secondo me non è decisiva al 100%, sinceramente. Ma adesso arriva la Moviola. No, aspetta, arriva il traffico anche, se no ci licenziano tutti. Traffico. Tutti convocati. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta. Tutti convocati. È rigore, sì o no? Il pallone è dentro fuori. È gol, non è gol, è gol, non è gol, è gol, non è gol. Può venirne un aiuto alla nostra campagna. La Moviola in campo, quantomeno i sensori. Però una cosa è la Moviola e una cosa il campo. Dammi la Moviola, dammi la Moviola. Davanti alla volontarietà non c'è Moviola che tenga, perché se si vuole limitare anche la soggettività decisionale dell'arbitro, allora veramente non dobbiamo più parlare di partite giocate in campo, ma di PlayStation. Ci vuole la Moviola in campo, perché così si evitano i teatrini settimanali di tutti. Però è anche vero che... No, solo per evitare i teatrini settimanali di tutti quanti, dopodiché succede che quelli che dicono sia la Moviola dicono no, fermiamola perché non si lavora più. Dammi la Moviola, dammi la Moviola. Non penso che sia una cosa bella di mettere la Moviola in campo e di chiudere, di fermare il gioco tutti i minuti per vedere se c'è fuorigioco, se c'è fallo, se c'è rigore, se c'è calcio d'angolo. Spero di no. Spero per il bene del calcio che arriverà mai. But guys, today we have taken really a historic decision for football. FIFA and IFAB, we are listening to the fans, to the players, to football. We are cautious, but we are also open to look into matters and to take concrete measures to show that a new era has started. Tutti vogliono la Moviola, la gente vuole la Moviola. E allora, dammi la Moviola. Oh, la cosa bizzarra, saluto subito Paolo Casarin, so che a pochi minuti lo coinvolgiamo. La cosa bizzarra, Paolo, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Che ne abbiamo sentite una carrellata, tutti contrari alla Moviola, poi improvvisamente in 4-4-8 dopo 30 anni di discussione dal mitico Biscardone, che salutiamo con deferenza, improvvisamente in 4-4-8 in una settimana Moviola in campo, sperimentazione. Strano, fra due anni si vedrà. La gente la vuole e noi della FIFA Casarina gliela diamo. Beh, i voltagabbana ci sono anche nel calcio, non è mica che sono peculiarità di altri settori, no? Quindi gente che cambia idea repentinamente, poi magari fra un mese ricambia l'idea, non pensiamo a cose definitive. E viceversa, se lei chiede il mio parere, sì, al di là di quelli che abbiamo sentito, anche di Platini, voglio dire, no? Che anche tanto di Blatter, per dire uno. Sì, no. Ma parlando degli ultimi, delle ultime manifestazioni di volontà, no? Sono state stracciate via comunque da uno che arriva dall'UEFA e che parla però come presidente della FIFA, no? Questo è il concetto. Ma io credo sempre che ognuno può anche cambiare idea, e soprattutto se ha un progetto però da portare avanti. Adesso la parola Moviola non è corretta, perché cosa vuol dire Moviola? Andiamo in campo a fare le discussioni per quello è fallo, non fallo, roba del genere. No, qui serve la tecnologia, anche la Moviola è una tecnologia peraltro, la tecnologia che ha già risolto un problema, che è quello del gol. No, è permesso, diciamo, da quello famoso del 66, 50 anni. Però diciamo pure più giustamente che sono almeno 15 anni che si parla del gol. Però lì è tutto semplice, perché è misurabile, un sensore, palla dentro, palla fuori, e il discorso finisce. Certo, ma difatti gli arbitri, prima di tutto, adesso il discorso è molto complesso, cerco di essere il più semplice possibile, e bisogna andare a correggere in una maniera opportuna gli errori degli arbitri. Allora, gli arbitri, al di là di quelli che poi vedremo in un secondo momento, i primi che sbagliano cosa sono? I gol, avevamo visto, non erano in grado di poterli vedere, né come arbitri centrali, né abbiamo visto come arbitri di fondo. No, non si può, perché effettivamente è difficile. va bene, e quindi è risolto con la tecnologia. Ma un altro, l'aspetto più vicino a questo, analogo, eccetera, è l'area di rigore. Cioè il fallo è dentro o fuori l'area di rigore? E sugli arbitri qui sono indifesi come sul gol. Sì, spesso è questione di centimetri. Certo. Allora riusciamo. Allora, o c'è una tecnologia che li aiuta dicendo loro fuori, dentro area, no? Poi loro, se vedono che il fallo di mano di Florenzi è punibile, e dicesse questa voce superiore, era dentro l'area, gli dai rigore, perché tu l'hai considerato punibile ed era dentro l'area di rigore, cosa che può avvenire in tempi ragionevoli. Pier, ecco. A me la cosa che colpisce è che il più scettico mi sembra sia Collina, che ha detto attenzione, dal video non arriverà sempre una sentenza, non bisogna snaturare, no, il gioco del calcio. Non so quello che dice Collina, che fino all'altro giorno era uno di quelli che diceva no alla tecnologia, quindi lasciamo perdere. No, guardiamo avanti, e poi soprattutto parlo per me, no, non per questo o per quell'altro. Se lei chiede a me, io dico benissimo la tecnologia, in senso lato, no? Cioè l'arbitro da solo non può vedere certe cose, ma lei lo sa quanti falli laterali sono sbagliati? Sì, immagino una, no, certa quantità. No, in una partita ci sono 40 falli in media, 40 falli laterali, ma sa che due o tre sono sbagliati? Ma sa che qualche volta il pallone va fuori dalla linea di fondo su cross oppure su corner tirati in qualche maniera e non vengono rilevati? E questa è una delle cose facili, cioè come si vede la porta, si può vedere tutta una linea, sì. Tanto per dire. Allora cominciamo a smussare tutti gli errori. Qual è un altro errore? Quello dell'area di rigore. E allora, prima lavoro, la tecnologia deve andare a vedere se è in grado di dire questo, di fornire in tempi reali all'arbitro, no, e questa roba. Sì, un'informazione che sia utile. Esatto. Pier, secondo me, sì. Pier, anche prego. Sul fuorigioco, al di là della discrezionalità, tu ieri hai citato l'esempio di Napoli-Chievo, dove c'è stata una clamorosa decisione arbitrale molto positiva, una vera e propria perla ieri. Perfetto, no, ma sono d'accordo. È che i guardaline sono straordinariamente bravi, no? Che hanno un po' messo in seconda parte la necessità della tecnologia, ma sa qual è il problema? Loro possono essere sempre bravi, poi quando il campionato del mondo si decide per un fuorigioco di mezzo metro non rilevato, è un campionato del mondo falsato, punto. No, ma infatti sul fuorigioco, secondo me, ma rientriamo al discorso che facevo prima, cioè tutto ciò che è in qualche modo GPS, cioè misurabile dal punto di vista metrico, secondo me deve essere implementato e deve essere aiutato. Tutto ciò che invece è discrezionale, che riguarda il rapporto di forza, l'entità di una spinta, la dinamica del gioco, secondo me deve rimanere un oggetto arbitrale e quindi anche discrezionale. Certo. Allora, quando si parla di questi futuri, speriamo, no? Possibilità, intanto la tecnologia è in grado di fare queste cose che abbiamo appena detto? Fuori gioco, linee perimetrali delle aree, linee se si vuole perimetrali di tutto? Chi lo sa, bisognerebbe sapere. Perché non è certo questa semplice tecnologia, perché adesso se vogliamo andare avanti, no, come bisogna andare avanti, no, bisogna trovare anche una tecnologia che si sviluppi, tanto per dire, non è che è tutto automatico. Ma bisogna mettere dei limiti molto precisi, una regolamentazione molto precisa, perché se no facciamo un casino infernale. Secondo step, quello che l'arbitro non vede, cioè Zidane non poteva rimanere in campo. Questo è il vero problema, non si può dire l'arbitro non ha visto. Cioè oggi se entriamo in questo discorso dell'aiuto tecnologico, a questo punto, così come fece poi in qualche maniera la FIFA al campionato del mondo del 2006, Zidane è stato espulso dopo 4 minuti di sospensione. No? Sì, bisogna dare questo strumento a disposizione degli arbitri, con questo occhio in più, ecco. Questa telecamera. Sì. E poi qui entriamo in un terreno molto difficile, che sarà dire chi è che chiama l'arbitro per vedere questa roba. Sì, ma difatti facciamo 2 anni di sperimentazione. Io, ed è l'ultima domanda che faccio, poi non so Pier cosa ne pensa. Io ho l'impressione, leggendo le parole di Collina, al di là che lui fosse contrario precedentemente, che se noi oggi sosteniamo riporta, ecco, no, che è una roba già finita, no? Sì, però se noi oggi sosteniamo che abbiamo dato il via libera alla Moviola, forse facciamo un errore di prospettiva. Vediamo cosa sarà fra due anni di questo annuncio. Non so, Paolo Casarin naturale. Cosa ne pensa, poi Pier. Paolo, no, poi io Pier. Sono completamente d'accordo con per quanto riguarda il fuorigioco, per esempio, che bisogna cambiare la regola, adattarla a una interpretazione molto più semplice. La tecnologia, per quanto brava, non è che può entrare nei meccanismi fuorigioco, ha disturbato o meno, altrimenti non può essere applicata, no? Quindi per fare alcune di queste cose bisogna modificare le regole per renderle a una lettura tecnologica prima, no? Quindi vede, già diciamo, e sono d'accordo con Collina in questo caso, così come anche lui sa benissimo che l'arbitro dietro la porta non serve a nulla, non serve a nulla, perché se di aiuti dobbiamo dare gli aiuti fondamentali, tali per cui un arbitro che riceve un suggerimento, che sarà un tablet, un monitor qualsiasi, in cui andrà a vedere, no, una cosa che non ha visto, oppure un clamoroso errore di interpretazione, possa dire sì, ho sbagliato. Sì, possa intervenire e correggersi o meno. Grazie Paolo Casarin, siamo vicini alla pausa. Pier, anche tu hai quest'idea? No, ma io sono d'accordo sull'impostazione, aggiungerei anche un elemento un po' più politico, cioè secondo me che questa decisione venga fatta adesso, perché Infantino si rende conto che questo tipo di soluzione è molto popolare. È, diciamo, molto che appartiene allo stesso campo semantico della lotta alla corruzione, no? Della FIFA. Quindi in un momento nel quale comunque lui vuole dimostrare di non essere ciò che dice Maradona, ma di essere questo uomo nuovo, un uomo trasparente, anche questa è una forma di trasparenza, no? Cioè già cercare di ridurre la discrezionalità e gli errori arbitrali viene percepita dall'esterno come una forma di onestà intellettuale. Quindi credo poi sono che appena anche stati Pier, sono appena stati è appena stato eletto, quindi la FIFA è in clamoroso deficit di consenso pubblico, e quindi qual è il primo provvedimento da fare? Quello che rende la maggioranza estremamente contenta, se vuoi anche un po' demagogico, ma io magari a pensar male potrei leggerlo in questa maniera: diamo loro la moviola, ce l'hanno chiesto tante volte, guardate, diamo loro bravi. La sperimentazione della moviola, sì, ma aspettate. Leggi come vuoi. Ad esempio, Pier, e poi ti salutiamo. Poi al volo! Leonardo Bonucci! 3-2! Golasso di Bonucci! Golasso al 41! Ti ricorda qualcosa Juve-Roma 3-2? Mi ricorda parecchio. Allora, come sarebbe finita Juve-Roma, che non è solo finita Juve-Roma 3-2 con la moviola in campo? Avrebbe deciso comunque l'arbitro su quella posizione di fuorigioco che geograficamente c'era. Pogba, fallo, esatto, dentro o fuori. Più o meno il problema. Pogba dentro o fuori l'area di rigore, il mani di Maicon, un centimetro dentro, guarda, è la partita perfetta. Certo, amici, 800 24 00 24, 349 238 6666, e poi vi lascio anche a domani, se volete. Come sarebbe finita con la moviola in campo Juve-Roma 3-2? Pier, ti lascio con questo pensiero. Interessa qualcuno? A Pier sicuramente, quindi domani dopo il GR delle 14 Pier ci dai la risposta. Ciao Pier. Ci penso notte tempo. Ciao Pier. Pensaci stanotte, noi torniamo invece dopo la pausa. Anche se qualche volta riuscissimo a portare avanti il discorso di tecnologia, sarebbe anche ora, si eviterebbero tante cose che fino a questo momento fanno solo discutere e aiutano voi giornalisti ad avere qualche cosa da dire. Tutti convocati. Convocati. 800 24 00 24. Non c'è Raffaele da Napoli? Era da 20 minuti in attesa e ha messo giù. Perché? Raffaele, chiamaci. No, 800 24 00 24. Cerchiamo di recuperarlo. C'è chi ci chiede di dire qualcosa sull'Leicester domani lo facciamo. Noi siamo pieni d'orgoglio. Ranieri più 5 sul Tottenham, più 8 sull'Arsenal, più 1000 su chi vuole la Superlega e non vuole l'Leicester in Champions League. Però vedi, l'anno prossimo, prima Albertini diceva, però le nostre squadre squadre, non, ad esempio Inter e Milan, non hanno in questo momento molto più del blasone da mettere sul piatto. Chelsea, Manchester City, Liverpool hanno molti quattrini da mettere sul piatto oltre al blasone, ma l'anno prossimo e hanno anche molta paura di stare fuori. Non sta fuori, cioè. Qualcuno è fuori, il Chelsea, sì, altri. Chelsea è fuori, Liverpool praticamente anche, City e United vediamo dietro già West Ham, insomma. È tornato potrebbero... Raffaele da Napoli, è ciao, tornato Raffaele. Salve ragazzi, buonasera. Ciao. Prego. Buona serata, vi ascolto sempre, siete magnifici. Grazie. Mi dispiace però non avere Pierluigi Pardo, perché gli avrei voluto fare tanto una domanda, e tanto che lo cerco per fargli questa domanda, sia allo stadio e tutte le parti. Però non lo trovo mai. Era ieri sera a Napoli, era ieri sera a Napoli. Non lo scrivo. Posso incontrare, perché poi sa, non si può andare. Dove sta Pierluigi? Qual è la domanda? VIP. È un VIP. Sono curioso. È un VIP. Prego, però, facciamola così, gliela giriamo domani. Io volevo sapere da Pierluigi, e può pure da voi, perché siete talmente competenti della materia che potete darmi pure voi la risposta. A che punto sarebbe ora il Napoli se avesse investito nel mercato di gennaio? Avesse fatto finalmente quel salto di qualità che tutta la città gli chiedeva al presidente. A che punto sarebbe? E soprattutto visto che la Juventus doveva fare quella rimonta che poi sta facendo, noi con un po' di qualità in più, investendo un po' in più, penso che quest'anno poteva essere l'anno buono, ma non sarà l'anno buono, perché purtroppo, come al solito, e ha dato ampia dimostrazione, il nostro presidente non vuole vincere il campionato. Ma come non vuole vincere il campionato? Vuole solo partecipare. Il Napoli non vincerà lo scudetto perché De Laurentiis non vuole vincere, però noi abbiamo preso a cuore la tua situazione. Allora abbiamo riconvocato per Luigi Pardo. Pier, che succede? C'è Raffaele da Napoli che ieri ti ha cercato allo stadio, non lo fanno passare dove eri tu perché eri un VIP, doveva farti una domanda. Raffaele, però veloce, dai, prego. Sei grande. Ci volevo chiedere. Fagli questa domanda. Quest'anno in Napoli il che percentuale ha perso la grande occasione di poter vincere lo scudetto? Dai, causa bravo mancata, causa mancata, completo la domanda, causa mancata mancato acquisizione di fuori classe al mercato invernale. Prego, ma secondo me il campionato non è finito, la Juve chiaramente è favorita, ma non è finita. Quindi, secondo me il Napoli ha un bel calendario, le prossime quattro partite potrebbe recuperare e riavvicinarsi, la Juve avanti e in questo momento dà una sensazione di solidità superiore. Detto questo, io faccio fatica a dirti che, cioè, secondo me a gennaio il Napoli sul mercato ha fatto poco, anche perché funzionava. L'eccezione è la Roma ha fatto un mercato di gennaio pazzesco, ma perché le cose non andavano ed è riuscita a trovare delle soluzioni per certi versi anche sorprendenti, perché gli stessi dirigenti della Roma sono sorpresi da quanto stia facendo bene così presso il Shaarawy, per esempio. Magari su Perotti erano più fiduciosi, però qualcosa il Napoli ha lasciato come percentuale. Dai, dammi la percentuale che poi passiamo all'Inter. No, ma io non ti posso dire, non c'è un giocatore. No, lo devi dire che... a Raffaele, sennò ti viene a cercare Raffaele, anche la prossima secondo volta. Me non c'è un giocatore che il Napoli potesse. Non c'era un giocatore che il Napoli che poteva prendere la storia a gennaio, che poteva prendere e che non ha preso, che avrebbe cambiato la storia. Ciao Pier, ciao. A domani. No, fatti trovare da Raffaele la prossima volta che vai a Napoli. Io ieri ho penso aver risalutati quasi tutti. Ma stai lì nel posto dei VIP. Dai, parliamo dell'Inter. Ciao. Ma che grande partita ha giocato l'Inter. Alla fine ha prevalso l'infallibilità della Juventus. Una Juventus che ha tremato di fronte all'Inter di Mancini. Di là della delusione per non essere andato in finale, spero che serva alla squadra per capire che comunque qualcosa di buono siamo capaci di fare, quindi quella partita di mercoledì potrebbe essere questa. Si è letto in queste settimane, quando le cose non andavano bene, di una squadra che non seguisse più il tecnico. L'atteggiamento è sempre stato ottimo da parte di tutti. Queste sono le classiche cose italiane: quando uno perde sono così, quando vinci sono al contrario. Non c'è niente di negativo nella squadra. Una partita non cancella 45 giorni di risultati non positivi, ma una partita può aiutare comunque a cambiare questa rotta. Cioè, noi siamo ultimi in classifica, siamo comunque in una posizione che, dicendo me, domani sera siamo ancora a 5 punti al terzo posto. Cambio, cambio, cambio di mentalità. Ore 20:45, Inter Palermo senza Handanovic, quindi gioca Carrizo, Handanovic alla febbre. Andrea Sorrentino, ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao. Allora, la domanda delle domande è questa, collega di Repubblica: è possibile che debba andare in TV un dirigente a dire che una squadra non ha le palle perché improvvisamente cambi la storia di una stagione, come magari può capitare all'Inter? Bisogna vedere se la seconda parte del tuo assunto si verificherà, cioè bisognerà vedere se l'Inter invertirà la rotta dopo la partita con la Juventus. Di sicuro all'Inter c'è un problema di comunicazione, perché di solito è soltanto Mancini che si espone, mentre invece sarebbe opportuno che lo facesse qualcun altro, ma questo è solo un aspetto, una parte dei problemi dell'Inter. Io credo che l'Inter, dopo aver fatto il giamburrasca del campionato per 4 mesi, sia poi caduta in una crisi autoprodotta per lo più da problematiche interne, dinamiche interne, insoddisfazioni interne e problemi interni che hanno portato l'Inter a crollare nel rendimento nei mesi di gennaio e febbraio. Ora vedremo se la partita con la Juve è stata davvero una, rappresenterà un'inversione di tendenza. Diciamo la partita della pace, Andrea. Sì, ma sai, poi anche questa cosa dello spogliatoio, ragazzi, lo spogliatoio contro, a favore, chi è contro, chi è a favore, sono discorsi sempre un po' vaghi che si fanno, perché io personalmente non conosco, e ditemi se lo conoscete voi, un ambiente di lavoro, non solo nel calcio, in cui tutti siano felicissimamente coinvolti e remino tutti dalla stessa parte, a nessuno sta antipatico il capo, o nessuno... Tu dici a parte tutti i convocati, dici, no? Sì, a parte, sì, a parte tutti i convocati, a parte Repubblica. Però dico, è chiaro che in uno spogliatoio ci sono sempre delle situazioni un po' dispare, un po' particolari, ci sono gli scontenti e ci sono quelli più contenti e quelli più vicini all'allenatore e quelli meno. Ma io non credo che queste cose siano la ragione poi degli insuccessi. Io credo piuttosto che una serie di insuccessi e di problemi tecnico-tattici e psicologici all'Inter abbiano poi provocato una serie di problemi anche a livello di gestione interna. Però sono tutti discorsi che poi lasciano il tempo che trovano. A me interessa, ecco, sì, dimmi. Io penso, Andrea, che se così fosse, cioè se si è creato anche questo vuoto comunicativo, sarebbe doppiamente inquietante. Cioè Ausilio poteva forse presentarsi a metà febbraio davanti alle telecamere, non aspettare inizio marzo, poteva farlo dopo la trasferta a Bergamo, ad esempio, partita inquietante, dopo Verona. Le stesse cose le ha dette anche Moratti, che guarda, è sempre lì dietro, che nell'ombra però è una presenza, come il fantasma dell'opera. Ma Capuano, hai citato una partita che secondo me è stata proprio il campanello d'allarme dell'Inter di quest'anno, cioè Atalanta-Inter. Io dopo quella partita, che secondo me fu vergognosa e inquietante, come dicevi tu, cominciai a chiedere all'Inter: ma non vi rendete conto che sta franando qualcosa, c'è qualche problemino? E tutti, io vi giuro, per settimane hanno rifiutato l'idea di essere in crisi, forse anche una autodifesa, una conseguenza logica di chi poi si trova in difficoltà, il rifiutare l'idea di esserlo. Però di sicuro all'Inter c'è stata una sottovalutazione del momento, si è pensato che le cose sarebbero in qualche modo aggiustate, invece non è successo, e questo è stato anche un qualcosa che dobbiamo imputare, diciamo così, alla gestione interna, a chi comanda dentro l'Inter, che non è solo Mancini, poi a volte è soltanto lui, però insomma c'è stato, diciamo, un club poco reattivo nelle settimane in cui la crisi cominciava a manifestarsi. Io sì, non so se la crisi non l'unico, non l'unico, perché anche la Roma è stata poco reattiva, i risultati dopo lo hanno dimostrato, solo che probabilmente la Roma ha avuto la fortuna e la bravura, ha una rosa qualitativamente superiore. Mancini dice il terzo posto è in mano nostra, la realtà è che o stasera vince oppure è la seconda milanese di questa domenica a sfilarsi dal discorso, da questa corsa di eliminazione per la Champions League. Andrea, ti saluto, ti ringrazio, buona partita, buon lavoro. A voi, ciao. Ciao. C'è il traffico. Qualcuno che ti ha visto depresso, sei depresso? No, non sono depresso, no, assolutamente. Tutti convocati. Tutti convocati. Intanto io giro a Claudia Scattione, autrice di questa puntata, Filippo Aurigi, Andrea Roccabella, tutti gli altri. Il messaggio che arriva al 349-238-6666, le vostre scelte musicali sono sempre fighissime. Scelte delle tante copertine di questa siamo trasmissione. Siamo mica qui a pettinare le bambole. Non siamo mica qui a pettinare le bambole. Chi è? Ancora lui. Sinisa! Sì. Sinisa, sono di nuovo io, il presidente più vittorioso nella storia del calcio mondiale. Sbagliato numero. Prima purtroppo è caduta la linea. Non è caduta, abbiamo messo giù noi perché non siamo Mihajlovic, quindi abbiamo... Tutti convocati, Radio 24. Figuriamoci Radio 24, no, Sinisa, Radio 24. Non dire puttanate, quelli non vi concedono spazio neanche sotto tortura. Sono comunisti! Ma perché non viene una volta allora? Giocava la squadra di Squinzi. E poi sai cosa ti dico, Sinisa? Le previsioni del tempo, come gliele facevo io, non gliene avrebbe fatte nessuno. La schedina Totocalcio, se tu aspetti da Capuano e gente che parla, ma figuriamo. No, vabbè, comunque non siamo Milano, ha sbagliato numero ancora, non siamo Sinisa. Sinisa, non invitarmi Capuano che non ti riesce. Allora, ti avevo detto, se la nostra non è una buona organizzazione di gioco e se siamo scarsamente coesi e poco positivi devi inventarti qualcosa. Ma dobbiamo farlo, cosa dovrebbe inventarsi? Mihajlovic, non noi. Ecco, per esempio Sinisa, e non farmi la voce di Capuano perché somiglia quasi più a quella di Genta. Allora, per esempio, sulla fascia di Sansone ci potevate mettere delle tagliole, quelle shake, oppure dello spray al peperoncino. Se l'arbitro usa quello da barba, voi portatevi in tasca quello urticante. Un po' di fantasia, cribbio! Gliel'abbiamo fatto dire, non siamo mia... Presidente, non siamo mia. Non siamo mia. Però parliamo di rugby. Giacomo Vagnasco, ciao Giacomo. Buonasera a tutti. E parliamo anche con Maurizio Vancini, che è il capo della commissione arbitrale degli arbitri nel rugby per quanto riguarda la Federazione Italiana. Vancini, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Abbiamo qualche minuto, non tantissimi, ne servirebbero molti di più, però questa è stata la puntata, abbiamo parlato tanto di Moviola, anche con un grande ex designatore come Casarin. Il rugby ci par di capire, ci ha raccontato così l'amico Giacomo Bagnasco, quasi quasi ci sta ripensando. Dopo anni di TMO, forse si decide di fare una marcia indietro. O no? Per quanto riguarda il TMO, il discorso è molto ampio, il discorso sta soprattutto nelle decisioni che deve prendere l'arbitro alla Moviola, che da prima erano legate solo ed esclusivamente al meta non meta, quindi all'assegnazione di punti. Ad oggi invece si può intervenire anche su qualcosa di marginale. E questo che è un po' la parabola che sta prendendo il calcio, cioè passa dalla goal line technology a sperimentare altro. Sì, tutto sommato e diventa difficile non snaturare lo spirito del gioco. Abbiamo visto le partite mondiali, primi tempi che sono durati un'ora, situazioni anche difficili da gestire. La questione sta soprattutto nel prendere la decisione giusta. Questo è dal punto di vista arbitrale determinante, perché se non c'è la possibilità di prendere la decisione giusta, ovviamente per un arbitro è penalizzante. È penalizzante ovviamente anche per quanto riguarda il risultato, è penalizzante per le squadre. Il dover prendere tempo per poterla prendere, scusate il gioco di parole, però diventa importante. Per cui è vero che ci sono state delle gare che sono durate veramente un'infinità. Giacomo, sarebbe meglio ridurre la casistica. No, la prima cosa che volevo dire è che bisogna anche considerare la componente pubblico, nel senso che ad esempio nella partita inaugurale della Coppa del Mondo di rugby quest'anno è successo un fatto che secondo me non sarebbe dovuto succedere, e poi diciamo in determinate circostanze potrebbe avere anche delle conseguenze non piacevoli. In sostanza, Inghilterra isole Fiji, gli inglesi riescono a evitare una meta proprio per pochissimo, perché il figiano Matavalu segna questa meta e per tutti sembra una meta regolare. l'arbitro non chiede la prova televisiva. Poi che cosa succede? Che sul maxi schermo di Twickenham si rivede l'azione. E si scopre che c'è l'inganno. Quello che nessuno degli 80.000 aveva visto diventa chiaro, perché l'estremo inglese Brown aveva placcato Matavallo appena in tempo e la palla era leggermente questa è una cosa, Giacomo, che non può permettersi neanche il rugby. Direi di no, perché a quel punto il pubblico si è messo a ululare e l'arbitro ha fatto una cosa che non so se Maurizio è d'accordo, ma a termini di regolamento non poteva fare. È tornato sui suoi passi. C'è il rischio, Vancini, di un'overdose di moviola. Noi la chiamiamo viola, poi sappiamo che termine è improprio, Diciamo sì, potrebbe esserci, perché come stavate giustamente dicendo, questo fatto ha condizionato molto probabilmente anche poi tutte le altre gare del mondiale, in quanto prendere una decisione sbagliata in un palcoscenico così importante sarebbe stato penalizzante non solo per la categoria arbitrale, ma per tutta la competizione. Ma tirando un bilancio, il rugby con il supporto tecnologico del video è un rugby migliore o è un rugby che si è un po' perso? È un rugby migliore dal punto di vista della correttezza delle decisioni, questo sicuramente, perché proprio il caso che avete tirato il ballo prima è evidente che prendere una decisione sbagliata sarebbe sicuramente stato peggio che non prenderne una giusta in ritardo. È un bene superiore quello, anche alla lunghezza delle partite, a qualche errore, a qualche scivolone. Grazie Vancini. Grazie. Grazie a voi. Grazie Maurizio Vancini, capo della commissione arbitrale della Federazione Italiana Rugby. Giacomo, noi poi abbiamo tempo in settimana di tornare sugli argomenti anche del Sei Nazioni, che questo weekend riposa. Poi ultimo certamente, sprint. Certamente. Quanto alla prova televisiva, l'ultima cosa che mi sento di dire è che sarebbe importante limitare a pochi i casi in cui usarla. Meta, non meta, scorrettezze gravi e poche altre cose, soprattutto in uno sport che, senza voler esaltare, comunque uno sport nel quale si è sempre andati avanti dicendo vabbè, l'arbitro ha sbagliato. Sì, c'è un'accettazione dell'errore che è un po' meno nel calcio, però giriamo tutti questi suggerimenti ai signori della FIFA che adesso per 2 anni studieranno la moviola nel calcio. Grazie Giacomo. Ciao Giacomo, a sentiamo voi. Settimana. Dobbiamo fermarci, mi prendo 10 secondi per raccontare questa storia che viene da Foggia. Ieri sera Foggia aggredito sul bus dai suoi tifosi in 200 con mazze e spranghe. Di ritorno da una trasferta persa ad Andria, oggi le partite di Lega Pro sono iniziate tutte con 5 minuti di ritardo, gesto simbolico ma va bene anche questo. Oggi non è arrivata ancora nessuna presa di posizione dell'Atalanta dopo la manifestazione ieri degli ultra sotto la Gazzetta dello Sport contro Sebastiano Vernazza. Noi aspettiamo con fiducia o forse no. Domani dopo il GR delle 14, ciao. Non avete niente altro da fare? Buongiorno a tutti.